L'Evangelo per radio. La potenza di Dio. Carissimi ascoltatori, tutti conosciamo più o meno certi aspetti del carattere di Dio. Dio è amore. Dio è giusto. Dio è santo, è buono, misericordioso. Ma vi è una qualità di Dio di cui si parla molto poco. Ed è la sua potenza. Forse perché l'uomo di oggi non sperimenta più quello che gli uomini di una volta realizzavano. Dio è potente. Nell'Antico Testamento, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe veniva chiamato il potente di Giacobbe. In uno dei libri più vecchi della Bibbia, il libro di Giobbe, leggiamo più di una volta l'affermazione «Dio è potente». Questa è la risposta che ha dato Elihu a Giobbe. Dopo che i tre amici di Giobbe hanno cercato con discussioni umane di convincerlo che era un peccatore, Elihu gli dà questa risposta. Se giudichi le vie di Dio come fanno, gli empi il giudizio e la sentenza di lui ti piomberanno addosso. Guardati bene dal volgerti all'iniquità, tu che sembri preferirla all'afflizione. Vedi, Dio è eccesso nella sua potenza, chi può insegnare come lui? E Giobbe fu convinto della sua colpevolezza, della sua meschinità. Considerando la grandezza di Dio, anche al tempo di Gesù si discuteva sulla potenza di Dio. Un giorno dei Sadducei fecero una domanda a Gesù e dissero: «Vi erano fra di noi sette fratelli, e il primo ammogliato si morì. Egli, non avendo prole, lasciò sua moglie al suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, dunque, di quali dei sette sarà ella moglie, poiché tutti l'hanno avuta?» Ma Gesù rispose loro: «Voi errate, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio». Quindi, i Sadducei, che pensavano di porre una domanda tranello a Gesù, ebbero una risposta che certamente non si aspettavano. «Voi sbagliate, perché non conoscete le scritture neanche la potenza di Dio». In poche parole, che cosa pensate, voleva dire il Signore Gesù, che Dio non sia capace di fare cose grandi e magnifiche, che voi non potete neanche immaginare? Dio è potente, e questo è l'argomento che spesso porta avanti l'Apostolo Paolo quando scrive ai credenti delle varie chiese. Ai credenti di Colosse egli afferma: «Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risorti con lui mediante la fede nella potenza di Dio, che ha risorto lui dai morti». Quindi l'Apostolo Paolo ha messo in risalto che i colossesi avevano avuto fede nella potenza di Dio. Sì, un vero cristiano è colui che crede che Dio è amore, che Dio è giusto, che Dio è santo, ma che è anche Dio potente. Potente a fare che? Potente a salvare in un modo che l'uomo non può pensare, salvarlo senza opere, senza una sua giustizia propria. Mentre tutte le religioni insegnano la necessità di fare qualche cosa, Dio è potente a salvare l'uomo mediante il solo sacrificio di Gesù Cristo. È di questa fede che l'uomo di oggi ha bisogno. Ha bisogno di credere che Dio è potente. È di questa fede che tu oggi hai bisogno. Egli è potente a salvarti se tu credi che Egli è capace di portarti in cielo con un solo atto di fede, con un solo atto di abbandono a ciò che Egli ha fatto per te. E non solo, se la fede di un cristiano si limitasse solo al fatto che Dio è potente a salvarlo, non avrebbe risolto certamente tanti problemi. Ma Giuda nella sua lettera scrive: «Ora a colui che è potente da preservarti da ogni caduta e da farti comparire davanti alla sua gloria, irreprensibili con giubilo, all'Iddio unico, Salvatore nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro. Signore, siamo gloria, maestà, forza e potestà da ogni eternità, ora e per tutti i secoli». Quindi l'Apostolo Giuda mette in risalto la potenza di Dio, nell'aspetto che Egli è potente a preservarci da ogni caduta. E questo è importante perché il più grande desiderio di un figliolo di Dio è proprio quello di camminare nei sentieri del Signore, di fare la volontà di Dio. Dal momento che il credente è del continuo tentato in vari modi e in varie maniere, egli certamente sarebbe scoraggiato fin dall'inizio se non avesse la promessa che Dio è potente a far sì che egli non cada. Sì, questa è una gran consolazione. Vi sono mille tentazioni, mille prove. Forse anche tu in questo momento stai passando un periodo di prova particolare, forse non sai dove sbattere la testa, forse non sai cosa pensare. Ebbene, metti come oggetto dei tuoi pensieri, delle tue riflessioni, la potenza di Dio. Sì, credi che Dio è potente a salvarti senza opere, che Dio è potente a sostenerti in piedi. Credi in questo ed egli lo farà.